Tu pensa, Nicoletta, vai a casa una sera dal tuo carro e gli dici: questa settimana non ce la faccio a fare la spesa, o entro questo mese la bolletta non ce la faccio, stampa un po' di soldi. Pensa come sarebbe facile risolvere così Sì, i problemi, no? li stamperei io. Anche Fine perché con gli questi sono ormai i interventi. temi di cui si parla a pranzo, a cena, Brava. spread e celiachia, insomma, Bravi, perché no? bravi, bravissimi. Claudio, vada, veloce. Sì, buongiorno. Allora, sono contento di aver superato la barriera rosa. La vostra radio è formidabile, si riesce a parlare. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Deborah, la barriera rosa. Cominciamo con un sorriso oggi. Noi l'abbiamo superata. E ci mancherebbe, siamo le conduttrici, siamo le padrone di casa. Vogliamo però raccontare che cos'è esattamente questa barriera rosa? Raccontiamolo e la salutiamo anche con affetto, la nostra Rosa, per chi non lo sapesse, la nostra centralinista, e che tutti i giorni sopporta noi conduttori, che diamo un po', come dire, discipliniamo chiaramente le nostre trasmissioni, e poi accoglie tutti gli ascoltatori che chiamano l'800 24 00 24. Difficile superare la barriera rosa negli ultimi minuti di trasmissione. Noi staremo insieme un'ora e mezza, ma noi vogliamo che voi superiate la barriera rosa fino all'ultimo secondo. E questo è un po' il gioco di oggi. Esattamente, perché è bello dedicarsi del tempo, ed è bello ed importante dedicare del tempo agli altri, qualche volta per nostra scelta, altre volte perché sono le situazioni della vita a rendere il nostro tempo indispensabile ad aiutare qualcuno che c'è caro. Parliamo proprio di questo stamattina. Vi ricordo che per intervenire anche la pagina su Facebook Cuore Denari Radio 24 è disponibile, il profilo Twitter @ Cuore e Denari. E dedica un po' di tempo agli altri, ma anche una parte di sé chi sceglie di donare il sangue. Una scelta importante, un impegno utile che ci ruba qualche giornata di lavoro, ma permette di aiutare indirettamente qualcuno che non conosciamo. E dedica il suo tempo agli altri, ai suoi cari, chi li accudisce e li segue quando si trovano a vivere un momento difficile per la propria salute. Per questo, quando la persona lavora, sono previsti dei permessi appositi, quelli della legge 104, di cui è bene conoscere il funzionamento. Ne approfitto subito perché già un'ascoltatrice ci ha scritto a cuoredenari@radio24.it. Salutiamo Manuela, che ha colto perfettamente il tema di questa mattina. Ci racconta: faccio volentieri, sono una donatrice, la donazione di sangue, anche se ho sempre carenze di ferro. Per quanto riguarda la proposta di legge, della quale parleremo tra un po', come in ogni cosa ci sono i furbetti, coloro che donano il sangue sempre di venerdì per allungare il fine settimana. Nicoletta. Infatti è arrivata la riforma Fornero e che cosa è cambiato, Deborah? Sembra che i nostri ospiti però ci aiuteranno in questo senso a chiarire tutti i dubbi. Sembra che la legge Fornero contenesse una lacuna normativa che avrebbe costretto i donatori di sangue pronti per la pensione, ma anche chi ha usufruito della legge 104, a rimandare la data per recuperare i giorni di astensione dal lavoro. Insomma, non conteggiava questa legge il tempo dedicato agli altri, appunto ai fini del conteggio pensionistico, e bisognava recuperare. Li hanno soprannominati subito gli esodati del sangue. Deborah, tu lo sai, io non sono un'esperta di previdenza, ma sentire questa notizia mi sembra proprio che qualche lacuna ci sia. Intanto voglio salutare il nostro ospite, il dottor Aldo Zino Caligaris, presidente FIDAS, Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue. Buongiorno, dottore. Buongiorno Nicoletta Carbone, buongiorno a voi. Dottore, come l'hanno presa questa notizia i donatori di sangue, che sono diventati, a quanto sento, gli esodati del sangue? Dunque, il problema è nato per un'incongruenza tra la legge quadro trasfusionale nazionale e la legge di riforma della pensione Fornero. Di fatto la legge quadro nazionale prevede per i lavoratori dipendenti una giornata di riposo per poter effettuare la donazione di sangue o dei suoi componenti durante le giornate appunto lavorative. E questa stessa norma prevedeva anche il mantenimento della retribuzione oltre che della previdenza pensionistica. La riforma Fornero di fatto non ha creato una specifica norma contro i donatori di sangue, però prevedeva che nel ricalcolo pensionistico e in particolare in quello che erano le decurtazioni per i giorni di assenza lavorativa fossero ammessi soltanto coloro i quali avessero beneficiato di giornate per infortunio o malattia, per la maternità, per il servizio militare o per essere stati in cassa integrazione remunerata, escludendo di fatto tutti coloro i quali non erano compresi in queste categorie. Di fatto noi tenevamo sotto osservazione questa criticità, perché avevamo da una parte la norma quadro nazionale del sangue, che dava il riconoscimento della giornata lavorativa e dei contributi previdenziali, dall'altra però, parte il problema della riforma Fornero. Dottor Zino Caligaris, ma com'è tutto complicato? Perché dobbiamo complicare la vita alle persone che con una parte di sé permettono ad altre persone di vivere. Certo. Io lo trovo... È vero. Ne parleremo. Siamo naturalmente. Tutti totalmente d'accordo. C'è però anche un altro aspetto, è che forse si sono allarmate un po' troppe persone, perché la situazione era anche un pochino circoscritta. Allora anche noi, per fare chiarezza, abbiamo interpellato un consulente del lavoro. Saluto e ringrazio Enzo De Fusco, che abbiamo messo per l'appunto al lavoro questa mattina su questo argomento. Dottor De Fusco, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. Ci aiuta, buongiorno, ecco, con voi. Parole semplici a fare chiarezza su questa vicenda. Quali sono esattamente i lavoratori in procinto di andare in pensione interessati eventualmente a questo provvedimento? Allora, intanto chiariamo una cosa a vantaggio di tutti. La donazione sangue e i permessi 104 sono utili all'anzianità per andare in pensione. Quindi, se serve oggi andare in pensione con 41 anni e 5 mesi, le assenze per donazione di sangue e le assenze per i permessi 104 sono utili a raggiungere questo requisito. Ed è questa la prima informazione che in qualche modo chiarisce alcune posizioni di giornali che non avevano fatto confusione. Di tutta l'erba un fascio, come si dice. Allora, questo, ci sono tutele statali, legge dello Stato che lo afferma, nessuna legge Fornero l'ha messa in discussione. Qual è allora la distinzione precisa che va fatta? La distinzione precisa che va fatta è che la Fornero ha sostanzialmente introdotto la cosiddetta pensione anticipata. La pensione anticipata si raggiunge con un'anzianità di contributi, appunto 41 anni e 5 mesi ad esempio, dice la Fornero, se sostanzialmente questa anzianità si raggiunge anche con la donazione sangue, ma con anche i permessi della legge 104, quel lavoratore subirebbe una penalizzazione che invece gli stessi lavoratori con assenze per maternità o malattia non subirebbero. Benissimo. Ma questo solo per un transitorio fino al 2017, perché dal 2018 tutti avranno penalizzazioni, quindi è un problema che si porrà più avanti. Benissimo, allora per tutti i dubbi che ancora non abbiamo chiarito su questo argomento, io ricordo che Enzo De Fusco ritornerà con noi a partire dalle 12, quindi per ora grazie intanto per queste prime informazioni, ci risentiamo grazie più tardi. Buongiorno, a dopo. Ecco, però, quindi Nicoletta, se abbiamo capito, il problema è un po' meno grave, diciamo della portata iniziale che era stata anche un po' forse erroneamente da noi fatta circolare. In ogni caso, questa questione riguarda solamente le pensioni anticipate e non tutte le pensioni. Rimane il fatto che la decisione, per chiunque l'avesse presa, lascia un po' perplessi, e per questo c'è chi si è mobilitato anche in Parlamento. E allora noi abbiamo in collegamento il senatore Luciano Pizzetti del PD, che ha presentato un emendamento anche su richiesta dell'Avis, che aveva proprio l'obiettivo di evitare che i donatori di sangue dovessero recuperare il numero di giorni corrispondenti alle donazioni ai fini pensionistici. Senatore, buongiorno e benvenuto a Cuore Denari. Buongiorno. Eccoci qua. Allora, questo emendamento, che porta, immagino, la sua firma, è stato approvato dall'Aula il 10 ottobre. Cosa succederà quindi? Verrà modificata la legge Fornero sulle pensioni? Viene ripristinato la norma antecedente, che è quella già citata dalle persone che hanno parlato in precedenza. Sì. Cioè si torna sostanzialmente alla legge che disciplinava le attività trasfusionali. Bene, quindi siamo più contenti, senatore? Sì, viene ripristinato fino a, perché il punto è che chi andava in pensione c'è un regime particolare fino al 31 dicembre del 2017, sì. Poi scatta un altro regime. Fino a questa data, appunto, era stata introdotta la norma Fornero, questa penalità. che non negava il diritto alla pensione, ma andava a decurtare. Certo. Se tu non volevi la decurtazione, dovevi recuperare quei giorni che avevi utilizzato per la donazione. Senatore Pizzetti, quando le è arrivata questa segnalazione, in modo tale che poi lei ha potuto confessionare questo emendamento? Guardi, questa cosa l'abbiamo seguita dall'inizio. Da tempo, prima che ci arrivasse la segnalazione, sia io sia la collega Cinzia Fontana alla Camera con diversi atti. Poi abbiamo trovato questo pertugio della legge sulla pubblica amministrazione, ci siamo inseriti con questo emendamento che abbiamo concordato col sottosegretario Fad del Ministero della Salute e siamo riusciti a convincere gli altri ministeri a portarla in porto. Adesso ovviamente la norma va alla Camera, ma non verrà in alcun modo modificata su questo punto. Risolverete la situazione anche per quello che riguarda i permessi della 104, almeno tenterete di farlo? Tenteremo di farlo, tenga conto che c'è il tema della 104, c'è il tema della cassa integrazione straordinaria, sono diverse le questioni che la norma Fornero escludeva. Ovviamente queste hanno tutte un costo e immaginare di risolverla d'amblè tutte quante è impossibile per quanto riguarda il bilancio dello Stato, bisogna affrontarla volta per volta. Ora abbiamo risolto questa, affronteremo ora quella della 104. E quindi si va avanti. Come lei diceva, ovviamente ci sono abusi su queste, ci sono abusi sulla 104. Certo. Allora bisogna colpire gli abusi ma non togliere l'opportunità di diritto. Esatto, che ne ha soprattutto bisogno di queste giornate. Infatti. Senatore Pizzetti, grazie per il suo lavoro e buona giornata. Buona giornata. A presto. Arrivederci. Dottor Zino Caligaris, i donatori diciamo quindi, se hai sangue nelle vene donalo? Sicuramente, e donare il sangue è un gesto di grande solidarietà e di grande valore civico e morale. L'unico modo per avere una terapia sicura e disponibile per la medicina trasfusionale e per la produzione dei medicinali plasma derivati è attraverso donazioni volontarie, periodiche, responsabili e noi diciamo anche associate. Quindi donare il sangue fa bene a sé, fa bene agli altri, è importantissimo ed è importante anche al di là di queste che possono essere delle criticità che però noi associazioni nazionali dobbiamo cercare di risolvere, perché non è giusto che in maniera retroattiva vengano colpiti coloro i quali responsabilmente, volontariamente e gratuitamente hanno dato qualcosa di sé per salvare la vita di un altro cittadino o di un'altra persona. E quella retroattività che un po' ci sta qui. Come per tutte le cose, perché non c'è mai certezza della legge, né in avanti né all'indietro, direi. Essere e benessere. Manca del sangue, rispondete, qui è il rosso del pronto soccorso. Una metro. Eccola! Grazie. Fatemi sapere quanto sangue c'è disponibile. Ha perso sangue? Non molto. Emorragia di lieve entità. Dategli 6 unità di zero negativo. Avvertite la sala operatoria che stiamo arrivando per una laparotomia. La domanda allora che oggi vogliamo porvi è questa: se oggi vi dicessero che non avete più il permesso retribuito, donereste ugualmente, magari approfittando del weekend? Oppure vi aiuterebbe avere orari più flessibili per la donazione, ad esempio donereste più volentieri nel pomeriggio come succede negli altri paesi europei? Raccontatecelo, molti di voi lo stanno già facendo. Andare a donare il sangue il sabato no? Suggerisce un ascoltatore, e altri dicono invece: io dono sangue ormai da 4 mesi, non ho mai preso un giorno di riposo. Chiamateci allora all'800 24 00 24. Se siete donatori, io vi prego di intervenire per raccontarci la vostra esperienza, per mettere a disposizione di chi ancora non si sente pronto a fare questo piccolo grande gesto che costa così poco, un briciolo di tempo, ma può dare tanto, può dare la vita, un gesto che, come recitava lo slogan di una fortunata campagna, fa grande chi lo dona e aiuta chi lo riceve, un po' come il sorriso. La maggior parte di noi può diventare donatore, la maggior parte di noi almeno una volta nella vita, riflettiamoci, almeno una volta nella vita potrebbe aver bisogno di sangue. Intanto io voglio salutare la dottoressa Simonetta Pupella, responsabile dell'area sanitaria del Centro Nazionale Sangue. Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno ai radioascoltatori. Dottoressa Pupella, il sangue è il farmaco salvavita per eccellenza, il fabbisogno in costante crescita, proprio questa crescita è legata all'aumento degli interventi, dei servizi che lo utilizzano, che utilizzano il sangue, anche il plasma, ad esempio i trapianti, la traumatologia, aggiungiamo anche l'oncologia, l'assistenza domiciliare. Siamo autosufficienti, ma di sangue, lo sappiamo, ce n'è sempre bisogno. Per questo è importante, come dite voi, diffondere e far crescere la cultura della donazione e invitare chi non l'ha ancora fatto a donare. L'importante è iniziare. Io ricordo lo slogan di una campagna della FIDAS, il dottor Zino Caligaris è qua in linea con noi, che recitava: ci vuole più coraggio a trovare una scusa che a donare sangue. E allora io vorrei chiedere a lei, proprio rifacendoci ai dati di una indagine che il Centro Nazionale Sangue insieme a Observa aveva realizzato per valutare gli atteggiamenti verso la donazione e anche le principali resistenze a donare, che cosa frena le persone a diventare donatori? Allora, prima di tutto la criticità più grande ce l'abbiamo nella fascia d'età più giovane, nel senso che la popolazione dei donatori di sangue, dei donatori associati in Italia, è prevalentemente rappresentata da soggetti che hanno superato i 35 anni di età. E questo perché? Perché nei ragazzi diciottenni che potrebbero, come si diceva giustamente, fare questa esperienza della donazione, subentrano due fattori principali di limitazione: da una parte il fattore emotivo, proprio sì, la paura, l'impatto con l'ambiente sanitario, che comunque in un soggetto giovane di buona salute non è mai una cosa così che si fa molto volentieri, e il secondo aspetto è quello degli stili di vita. Sappiamo che oggi i giovani sono portati a stili di vita purtroppo non particolarmente salutisti, e sotto il profilo della donazione del sangue questo è un elemento sì, che può ovviamente perché il donatore, dottoressa Pupella, fa un patto con il ricevente, si impegna a mantenere uno stile di vita sano e adeguato. Assolutamente, il donatore responsabile, consapevole, come si diceva prima, sa che deve tutelare la propria salute per fornire al paziente che ha bisogno di sangue un prodotto assolutamente sicuro. Il paziente chiede di essere curato, non chiede di subire un danno dalle cure, certo, mai, e quindi il donatore stringe veramente un patto di solidarietà con il paziente. E quindi i giovani sui giovani, Deborah, si fa un pochino più fatica. Si fa un po' più di fatica, e io intanto sto seguendo con grande attenzione i messaggi, perché naturalmente tutti coloro che ci stanno scrivendo sono coloro che hanno comportamenti assolutamente virtuosi, e per questo li ringraziamo. In molti segnalano la loro esperienza, dicono: noi doniamo da anni, lo facciamo naturalmente intanto senza prenderci il permesso di lavoro, ci sono lavoratori autonomi che chiaramente non hanno nessun permesso retribuito per fare appunto questo che consideriamo anche un proprio dovere, se si hanno le condizioni di salute per poterlo fare. E poi è chiaro che noi immaginiamo che coloro che ne approfittano, Nicoletta, difficilmente ci potranno telefonare, no, però cioè, insomma, qualcuno è molto sensibile su questo argomento, proprio perché evidentemente ha anche riscontrato la necessità qualche volta nella propria vita, no, di utilizzare una trasfusione. Dottor Zino Caligaris, io dicevo, almeno una volta nella vita c'è la possibilità, c'è il rischio, la possibilità che uno di noi abbia bisogno di una donazione di sangue, è corretto? Questo sì, è una cosa possibile, perché chiunque, anche in un'urgenza, un'emergenza, può aver bisogno di una terapia trasfusionale o di un medicinale derivato dal plasma, quindi di un medicinale derivato da un atto di donazione. Io approfitterei oggi, al di là poi del discorso delle pensioni, del permesso eccetera, per ringraziare quel 1.700.000 donatori di sangue che donano ogni anno nel nostro paese sangue ed emocomponenti e garantiscono quasi 9.000 eventi trasfusionali che ogni giorno si fanno assistendo i cittadini. Ecco, e questo è il numero che ci deve far capire che vogliamo chiunque... da Carmelo mandare un applauso se a questi donatori che continuano veramente un grazie di cuore è importantissimo. Intanto che Carmelo ci ricerca, ma ormai è andato l'applauso, io faccio un applauso a Fabrizio da Monza, magari è un donatore, buongiorno, oppure un applauso di incoraggiamento per diventarlo. Lo faccio io, bravo Fabrizio. Grazie, buongiorno a tutti. Io sono già donatore. Bravo. Ecco. E niente, volevo intervenire perché la cosa mi sta particolarmente a cuore e sono abbastanza aggiornato perché questo weekend che è appena trascorso c'è stata la festa dei 62 anni di attività dell'Avis di Erba, della quale io sono appunto associato e donatore. Cioè, il paese della nostra Laura Vanossi. Di Laura Vanossi. Esatto. Senta Fabrizio, vado al punto. Sì. Che abbiamo le borse qua che incombono. A borsa, come si dice. Fabrizio, vada. Allora, andando al punto, intanto volevo dire che c'è stato riferito che non c'è stata nessuna diminuzione di donazioni nonostante ci fosse il problema della legge Fornero, quindi noi donatori non risentiamo di questo, se ci devono dare altri giorni da fare prima di andare in pensione non è un problema, li facciamo. E poi un'altra cosa, oltre a ringraziare appunto i senatori che stanno spingendo questa legge per la modifica, volevo anche dire che donare è vero, è un gesto di altruismo, è un gesto buonissimo, si sta bene, ma non è solo questo, è anche fisiologico. Il beneficio è anche fisico perché il donatore comunque ha un ricambio di sangue, quindi lo fa anche per sé, oltre che per il bene che può fare agli altri. E questo bisogna farlo capire alle persone che magari non sono così altruiste da riuscire a vincere la paura solo per il bene degli altri, ma se magari vedono anche il bene proprio, oltre a quello altrui, riescono a vincere questa paura e a fare bene a entrambi. Dottor Ozzino Caligaris, dottoressa Pupella, prendete Fabrizio come testimonial. Noi dobbiamo andare ai mercati. Dobbiamo andare ai mercati, a tra poco. Cuore e denari. Ora passo a presentarvi la futura Mrs. Exclusive, Grace Campbell. Eccola qua! Guardatela! Non è bellissima! Ha appena donato il sangue e ne è ancora abbastanza per arrossire come una mammola. Eh sì, dietro ogni grande uomo c'è una donna che alza gli occhi al cielo, gente. Sono Bruce Nolan per Eyewitness News con tutti gli amici qui della donazione di sangue che vi ricordano... Sì, il tuo miracolo! Eccoci qua, ci stanno davvero chiamando in tanti, non si sa se perché il tema è molto bello o perché Rosa è diventata più brava. Più buona. Tutte e due le cose, tutte diciamo due. Così, anche perché è una sfida superare la barriera rosa. Accidenti, guarda. Sino all'ultimo secondo, 800 24 00 24. Debora mi ha detto già che all'ultimo ascoltatore che prenderemo proprio in finale, ma quello che chiamerà quasi in chiusura, facciamo un regalo. Io posso mettere a disposizione una guida del Sole 24 Ore su eredità e successioni, un tema che abbiamo affrontato settimana scorsa, ha avuto un grande successo. Se vi interessa, mettete insieme appunto le due cose. Siete interessati all'eredità e successioni, ma anche al tema di questa mattina. Superate la barriera rosa. E a proposito, dottor Ozzino Caligaris, chi ha la maglia rosa delle donazioni nella nostra Italia? Qual è la regione più virtuosa? Pronto? Sente. Eccoci qua. No, niente, abbiamo qualche difficoltà con forse, il telefono. Forse la dottoressa Pupella o ci sono possiamo leggere qualche SMS. Che perché carino no? Quando cadono gli ospiti. Sì, uno ce dice, la dobbiamo cavare tra di noi, ma per fortuna abbiamo una grande abbiamo la aiuto. Dottoressa Pupella, dottoressa, se sì, non ci fossimo qua, noi qua. Donne che ci sosteniamo. No, ma poveretto, povero dottore, lui cioè è caduto suo malgrado, non io è per... adoro il dottor Ozzino Caligaris. So che sei caduto e un motivo ci sarà. Sicuramente, ma posso provare comunque a dare la risposta senza ombra di dubbio. Allora, sicuramente c'è un gradiente che non va tanto bene, quindi che va, diciamo, dal positivo al negativo, come al solito dal nord verso il sud. Ci sono però delle realtà del sud, come la Sardegna, dove la mancanza dell'autosufficienza in realtà è legata a un grosso fabbisogno di sangue, perché sappiamo che è la regione dove risiede il maggior numero dei pazienti con anemia mediterranea, che sono pazienti dipendenti per tutta la vita dalle trasfusioni di sangue, e quindi c'è una motivazione. E una maglia grigetta la potremmo dare alla regione Lazio, dove l'autosufficienza è presente, ma in alcuni momenti dell'anno, soprattutto nel periodo estivo, in alcune fasi dell'anno abbastanza stabili, va in crisi, e va in crisi soprattutto la grande città, una città come Roma, per ovvi motivi di carattere organizzativo. I grandi ospedali spesso non offrono il parcheggio ai donatori. Diciamo che quindi il bilancio della sanità della regione Lazio è quello che è, per cui forse anche questo un po' incide, dottoressa, non so che cosa ne pensa. Sa com'è, io mi riporto sempre lì alle questioni economiche, alle questioni di soldi. Sì, non c'è dubbio, perché prima quando si parlava dell'indagine di Observa sui motivi che allontanano le persone dalla donazione del sangue, uno di questi motivi è anche che le strutture sanitarie non sono così accoglienti per i donatori come potrebbero esserlo. Ah. E questo è un elemento determinante, soprattutto non in tutti gli ospedali ovviamente, ma in alcuni ospedali i locali che sono dedicati alle strutture trasfusionali sono, spesso non sono locali che adeguati, confortevoli. Allora, Silvano da Treviso, Daniele dalla provincia di Forlì-Cesena, Stefano da Bologna, Francesco dalla provincia di Padova e le nostre amiche. Buongiorno Silvano, grazie per essere intervenuto. Grazie a voi, buongiorno. Senta, io volevo intervenire proprio sulla donazione del sangue. Io è da poco, da un anno che dono il sangue. Lo faccio ogni 3 mesi, vado a donare il sangue. Sì. E lo faccio esclusivamente, tanto per i motivi, lo faccio perché mi fa bene fare del bene, quindi lo faccio volentieri. Sì. E lo faccio esclusivamente di domenica. È una scelta, perché, quindi come si dice, si taglia la testa al toro, si può dire? Sì, sì. Ma quindi i centri AVIS sono aperti anche la domenica mattina eventualmente per accogliere la donazione? Ecco, questo è importante. Io faccio l'ospedale di Treviso, dove abito io, è aperto il sabato anche la domenica. E quindi Silvano dice andate di domenica. Grazie Silvano, complimenti per la scelta. Daniele, dalla provincia di Forlì-Cesena. Benvenuto. Buongiorno. Ascolti, io avevo un problemino. Sì. Allora, speriamo di risolverlo, Daniele. Sì, io sono sempre stato donatore. Sì. E qualche anno fa mi hanno trovato un problema cardiaco e ho dovuto cominciare a prendere la cardiaspirina. Sì. Allorché sono stato estromesso completamente. E lui non ci sta. Ecco. E volevo sapere, ma anche donando plasma. Bravo Daniele, bella domanda. Insomma, dottor Ozzino Caligaris, che è tornato con noi. Sì, sono con Aldo. Voi, eccoci. Daniele non si rassegna. Molti volontari quando ricevono la sospensione non possono donare o temporanea o permanente, insomma non ce la fanno, vogliono tornare a donare. In alcuni casi è possibile, il nostro ascoltatore prende la cardioaspirina, deve smettere con la donazione? Dunque, la cardiaspirina è controindicata nella donazione quando si devono fare preparati per la terapia trasfusionale con le piastrine. E quindi una donazione di sangue o di plasma potrebbe essere possibile se ovviamente le condizioni generali di salute del donatore lo consentono, perché la prima cosa da tenere presente è che non bisogna procurare danno al donatore. Ovviamente la seconda condizione fortemente correlata è di non creare danno con il sangue raccolto a ricevente. Ora noi siamo in una fase di revisione dei decreti che stabiliscono i criteri di esclusione temporanei e permanenti dei donatori dalla donazione di sangue e di emocomponenti. Si sta prestando particolarmente attenzione, e la dottoressa Pupella è capofila di questo progetto, di questa revisione dei decreti del 3 marzo 2005, proprio per dare massima attenzione a quelle che sono le accessibilità ai donatori per donare il sangue in maniera corretta, sicura, e soprattutto alle nuove che sono le nuove tendenze dal punto di vista clinico e sanitario, e quindi non comportare esclusioni cautelative e non creare però criteri di ammissione che possano essere lesivi per i riceventi. Certo, quindi c'è una sorta di revisione. Certo. Vedi? Due cose voglio porre. Prima cosa, vorrei salutare un ascoltatore che ci scrive sempre su Facebook, è Massimo, perché è un consulente finanziario che mi aiuta spesso nelle mie questioni, appunto, che mi pongono gli ascoltatori eccetera. In più è donatore dal 1990, una medaglia d'oro d'Avis, e quindi è proprio l'ascoltatore di Cuore e Denari che ci piace oggi. Anche Enrico prima cosa. Pagliarini è un ascoltatore di Cuore e Denari, è vero, forse è stato anche premiato qualche tempo fa. Sì. Seconda cosa, sono un B negativo, chi mi risponde? Il mio è un gruppo sanguigno richiesto? Il tuo è un gruppo sanguigno, rispondo io, sono sì. La dottoressa Pupella. Certo, il tuo certo. È un gruppo sanguigno abbastanza raro, non rarissimo, e chi può donare per lei? Sicuramente tutte le persone con il suo stesso gruppo, quindi B e Rh negative, e tutti i soggetti di gruppo 0 Rh negativo. Molto bene, quindi io di conseguenza posso donare alle persone che hanno il mio stesso gruppo? Lei può donare alle non persone è l'universale. Negative, esattamente no, ottimo. Non è un gruppo universale. Hai visto, Nicoletta? E io sono 0 positivo. E quindi, cosa vuoi dire? Dottoressa Pupella? Lo zero positivo lo dica lei. È universale per tutti i soggetti Rh positivi. Mi viene troppo da... si può considerare universale in situazioni di emergenza anche per i soggetti Rh negativi. È il gruppo zero che determina ovviamente l'universalità della possibilità di donare. Mi viene da sorridere, perché no, con tutto il rispetto, perché Nicoletta è dolcissima, ma come dire, è una donna mignona, non è... Io sono invece un donnone di 1,80 m, mi viene da sorridere del fatto che lei potrebbe donare a me e io non a lei. Ecco qua, tutto qua. Noi... questo è un po' la cosa che mi frustra oggi. C'è una barriera immunologica che non dipende da nessuno. Ottimo, quindi diciamo le cose come vanno dette. Questa è una questione di barriere immunologiche. E ricordatevi la nostra barriera rosa. 800 24 00 24. Andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e le autostrade e ritorniamo subito dopo insieme per Stefano e Francesco. Buongiorno. Cuore e denari. Sono quelli che danno poco del molto che hanno e lo danno per ottenere riconoscenza. Ma questo segreto di desiderio guasta i loro doni. E ci sono quelli che hanno poco e danno molto. Sono quelli che credono nella vita e nella generosità della vita, e il loro scrigno non è mai vuoto. Ci sono quelli che danno con gioia, e quella gioia è la loro ricompensa. E ci sono quelli che danno con dolore, e questo dolore è il loro battesimo. È bene dare quando si è richiesti, ma è meglio dare quando, pur non essendo richiesti, si comprendono i bisogni degli altri. Tutto ciò che hai, un giorno o l'altro, sarà dato via. Perciò, da adesso, così che la stagione del dare sia la tua, non quella dei tuoi eredi. Khalil Gibran. E se qualcuno di voi che accarezzava l'idea di diventare donatore da tempo ha preso oggi questa decisione, fatecelo subito sapere all'800 24 00 24. Seguiteci su Facebook o su Twitter. Abbiamo... la prima cosa da fare, che cos'è? Magari rivolgersi, immagino, al centro Avis più vicino. Ce ne sono ovunque. Fidas, Fratres, certo. Dottor Zino Caligaris, vogliamo dare un'indicazione a Deborah? Sì, allora la cosa più importante appunto è informarsi dove si può donare, ma ancora prima di dove si può donare è prendere le informazioni relativamente a qual è l'importanza del gesto della donazione, cosa bisogna sapere per donare il sangue e quali sono appunto i criteri che permettono di donare il sangue. Quindi acquisire le corrette informazioni, basta andare sui siti nazionali di Avis, Croce Rossa, Fidas, Fratres e comunque consultare la documentazione che è presso i punti di raccolta, le unità di raccolta associativi o presso i servizi trasfusionali, informarsi di questo, fare un corretto colloquio con un medico che fa l'accertamento dell'idoneità fisica del donatore e poi scegliere se continuare a compiere questo gesto di volontariato, questo gesto di gratuità e di grande responsabilità. Grazie molte. Prima di salutarla, dottor Ozzino, e di salutare anche la dottoressa Pupella, vogliamo dare la linea a un ascoltatore? Certamente, certamente. Stefano da Bologna? Stefano, io non lo vedo da qua, sì? Stefano, buongiorno. Buongiorno. Eccolo. Buongiorno e buon sangue a tutti. Grazie. Ottimo, abbiamo bello coniato un nuovo saluto. Io sono il dottore di Bologna. Sono medaglia d'argento, punto all'oro, ho lo stesso sangue di Nicoletta. Vai Stefano! Quindi va bene a tutti quanti. E dono sabato mattina, la struttura però manda sms quando l'apertura è eccezionalmente fatta la domenica o nel pomeriggio durante la settimana. Io volevo fare due domande veloci. Uno, sono i pro e i contro di questo ricambio di mezzo litro di sangue che abbiamo, sì, nei donatori. E l'altra è dal dottore in base al tempo che lui consiglia da far passare tra una donazione e l'altra, diciamo, la cosa ottimale che lui crede sia. Sì, allora dividiamo la domanda con i nostri due esperti. Dottoressa Pupella, prima domanda, pro e contro del ricambio del sangue. Sì. Allora, il quantitativo che si dona nella donazione di sangue intero è stabilito dalle norme ed è calcolato sulla base di un soggetto che abbia almeno 50 kg di peso. Non è la componente cellulare quella che la preoccupazione della sottrazione, perché si ricostituisce nei tempi adeguati. La componente liquida è assolutamente ben tollerata dall'organismo, quindi avere in meno 450 ml di sangue non crea nessun problema all'organismo. con le dovute accortezze. Certo. Quindi il dovuto, quindi il messaggio, dottoressa Pupella, è rasserenatevi, mentre la seconda domanda la facciamo al dottor Zino Caligari. Sogni quanto? Si dona? Grazie Stefano di Bologna per la sua donazione, per le sue donazioni. Ogni 90 giorni il sangue intero. Sì. Questo è il criterio minimo, però ovviamente i criteri sono criteri che devono essere adattati, devono essere presi in considerazione per ogni singolo donatore. Certo. Ovviamente la legge pone dei tempi minimi. Noi dobbiamo considerare ovviamente che nelle donne in età fertile la donazione si può fare due volte l'anno e quindi con un periodo maggiore di tempo tra una donazione e l'altra. Questo perché dobbiamo tutelare ovviamente quel patrimonio di ferro e la salute del donatore, e questo viene fatto attraverso i controlli annuali, controlli periodici, che diventano un ottimo strumento per fare medicina preventiva anche attraverso la donazione del sangue, ed è quel principio per cui dicevamo la donazione fa bene agli altri, ma fa bene anche a se stessi. E noi ringraziamo il dottor Zino Caligari. Grazie molte anche alla dottoressa Pupella, e ricordo comunque che ancora potete continuare a scriverci a cuoredenari@radio24.it, perché molti ci stanno scrivendo, anche chi per esempio ha avuto un trapianto, sta benissimo e vuole sapere per quale motivo gli è preclusa questa possibilità di continuare a donare. Magari gireremo queste mail ai nostri esperti. Naturalmente, chiederemo l'aiuto del dottor Aldo Zino Caligaris e degli amici della Fidas in questo caso per rispondere alle domande dei nostri ascoltatori. A Cuore Denari continua, a proposito di ascoltatori, aspettiamo anche gli ascoltatori per confrontarci. Esatto, sul tema che affronteremo più tardi, il tema dei permessi retribuiti per fare la donazione, ma anche per assistere le persone care che magari sono malate. Questi permessi sono contemplati dalla legge 104 e c'era il pericolo che praticamente questi permessi a casa non potessero essere utilizzati come giornate lavorative per calcolare, appunto, per andare in pensione. È un problema che si sta risolvendo in Parlamento, però noi ne parleremo alle 12 con il nostro Enzo De Fusco. E adesso noi vogliamo parlare con il nostro dottor Filippo Ongaro, che è in linea. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Il nostro dottor Ongaro è il nostro... Il mio adesso, perché tu hai per la tua scuola di risparmio Gianni Lupotto. È se vero. Permetti, io mi prendo il dottor Ongaro per la mia scuola di essere benessere. No, ci mancherebbe. Cosa volevi sapere allora oggi? Io avrei voluto fare delle domande in qualità di donatrice, purtroppo non lo sono da molto tempo perché per un problema non posso più continuare a donare, però vorrei chiedere al dottor Ongaro qual è l'alimentazione corretta che deve seguire chi invece è donatore. E c'è una differenza fra uomo e donna, dottor Ongaro? Nelle indicazioni da dare? Ma le indicazioni ovviamente che avete appena dato voi, certamente sì, c'è una differenza tra uomo e donna nella frequenza delle donazioni. Sull'alimentazione diciamo che è una delle maniere anche per sfatare la paura di un'eventuale anemia, quindi concentrarsi su un'alimentazione che sia il più ricca possibile di ferro, insomma, può contribuire perlomeno a togliere un pochino di questa paura. Gli alimenti, tutti sanno ovviamente che la carne rossa è effettivamente una vera miniera di ferro, anche se la carne rossa è uno di quegli alimenti che per molti motivi abbiamo ridotto nella nostra dieta. In realtà anche il pesce contiene una buona quantità di ferro, e il ferro è contenuto anche in molti alimenti di origine vegetale che invece sappiamo devono essere molto presenti nella nostra alimentazione, quindi i legumi, gli ortaggi, la frutta fresca, perfino le foglie del tè sono un alimento ricco di ferro. Quindi questi i primi suggerimenti, ma ci sono tante altre indicazioni, lasciamo un po' di suspense e ce le portiamo nella seconda parte del programma. Dottor Ongaro, venga con noi. Cuore e denari. Dove ce l'hai l'acceleratore tu? Non cominciamo adesso, Mi sono sbagliata, capita pure a me qualche volta. Allora, la borsa ha messo, i titoli hanno messo l'acceleratore sul pedale oppure il piede sull'acceleratore, io ho fatto un mix così mi divertivo. Ma notano questi ascoltatori. Giorgio proprio subito si è accorto della mia gaffa, ma pazienza, bravi così insomma. Meglio l'acceleratore sul piede, perché vuol dire che il piede voleva andare. Il dottor Ongaro invece magari voleva andare ma è dovuto restare con noi. Nel frattempo si è cotto la pasta, mangia il dottor Ongaro, perché non lo so, sai, lui è così integerrimo nella sua alimentazione. La dieta del donatore, eravamo all'importanza del ferro, dottor Ongaro? Sì, no, solo un'ultima nota secondo me interessante è che non è così fondamentale il valore assoluto del ferro negli alimenti, è più importante invece la capacità di assorbimento di quel ferro. Il classico esempio sono gli spinaci, alimento classicamente considerato ricco di ferro, ma in cui in realtà il ferro è legato ad altre sostanze che ne limitano abbastanza l'assorbimento. Va calcolato che in genere il ferro contenuto negli alimenti di origine vegetale viene assorbito per un 2-10%, mentre il ferro contenuto negli alimenti di origine animale viene assorbito molto di più, il 10-35% di quello contenuto nell'alimento. Ultima cosa, la vitamina C, molto utile per migliorare l'assorbimento del ferro, quindi aggiungiamo sempre anche nella nostra dieta agrumi, frutti di bosco, kiwi, fragole, i pomodori, il ravanello, ricchi di vitamina C, che ha dei benefici a sé stanti, ma che ovviamente aiuta anche ad assorbire il ferro contenuto negli altri alimenti. Il dottor Ungaro, che è un professore educato, non fa domande, quindi te la faccio io. Deborina, che cosa hai imparato dalla nostra scuola di benessere? Che se anche non sono una donatrice, se mangio gli spinaci aggiungendo il succo di limone, meglio. Esatto, promossa Deborah, bravissima. Vabbè, dai, un 7 per oggi, seconda grazie, lezione. Grazie dottor Ungaro, torni, buona giornata, presto, grazie, altrettanto, a presto, arrivederci. E allora, che fa la Deborah? Io adesso direi, anzi sai che faccio, per sì, introdurre il nostro prossimo approfondimento, direi che mi faccio aiutare da Paolo da Roma all'800240024. Paolo, buongiorno. Sì, buongiorno, ci dica. Allora, io sono un donatore, quindi anch'io parte interessata la trasmissione è anche a questa, come dire, questo quesito che insomma nasce dal fatto che ho letto qualcosa un po' in giro. Diciamo, gli effetti della legge Fornero prevederebbero anche che in caso di donazione il giorno in cui si va a donare non venga conteggiato ai fini previdenziali. Paolo, lei si è perso la prima parte del nostro programma, si è messo all'ascolto un po' tardi. Ahimè sì. Ma noi recuperiamo, Nicoletta. Grazie. Recuperiamo? Possiamo recuperare, può anche recuperare lui andando certamente poi a recuperare il podcast della nostra trasmissione, ma noi subito gli diamo tutte le indicazioni che gli servono. Salva Danaio. Noi siamo qui a urlare la nostra rabbia, perché non è possibile. Siamo qui a urlare una rabbia contro una riforma che va a colpire ancora le persone più deboli. Grazie. Scusate, ma colpisce le persone più deboli in che modo? Questa legge, la famosa legge 104, permetteva ai parenti delle persone con malattie più o meno gravi di poterle assistere. Oggi si può usufruire sì di questa legge, ma quando uno poi deve andare in pensione, lo dico con parole che tutti possono capire, dovete recuperare. Si devono recuperare. Per cui se una persona deve andare in pensione ai 35 anni, deve recuperare tutti i giorni che ha usufruito per poter assistere il proprio malato. Oltre a questa riforma, poi c'è la burocrazia che si mette bravo in mezzo. Abbiamo rubato un pezzo della trasmissione La Gabbia, che va in onda appunto sulla 7, la trasmissione di Gianluigi Paragone, perché si raccontava della storia della sorella di questa signora, di cui avete sentito la testimonianza, che soffre di una malattia rarissima che la costringe su una sedia a rotelle. Oltre al danno c'è la beffa, come si suol dire, per via di questo problema con il calcolo pensionistico che coinvolge appunto la sorella Monica, che usufruisce appunto della legge 104, normativa che le consente di avere dei permessi retribuiti dal lavoro, naturalmente per necessità molto evidenti. E allora, care amiche e cari amici, parliamo proprio di legge 104 in quest'ultima parte di Cuore Denari, e vediamo che state già prenotando le vostre telefonate. Vi chiediamo se vi siete trovati ad usufruire di questa normativa, se avete avuto problemi o difficoltà sul posto di lavoro, se dovrete fare affidamento prossimamente su questo ammortizzatore, raccontatecelo al numero verde, ma anche al 349-238-6666. Il nostro consulente del lavoro, Enzo De Fusco, è pronto a farci il punto della situazione e a rispondere a tutte le vostre domande. Ben ritrovato De Fusco, buongiorno. Grazie, buongiorno a voi. Buongiorno. Intanto, ecco, possiamo subito accontentare Paolo da Roma, che ci richiede di rifare il riepilogo della prima parte della trasmissione, ma chi se la fosse persa, è necessario farlo forse questo riepilogo per tutti. Per chi fa la donazione di sangue, si prende il permesso retribuito dal lavoro, è vero che dovrà, nel momento in cui andrà in pensione, recuperare questo giorno? No, non è assolutamente vero, purtroppo sui giornali si è fatta un po' di confusione, la stessa trasmissione che avete inviato secondo me genera confusione. La situazione è la seguente: chi si assenta per la donazione del sangue, ma anticipiamolo anche per la legge 104, non dovrà recuperare nulla. Questa assenza vale ai fini della maturazione dell'anzianità per andare in pensione. Quindi per andare in pensione servirà un numero di anni e di mesi, queste assenze si computeranno in quel numero di anni e numero di mesi. Allora, cosa è successo invece? Qui sì, un minimo di penalizzazione c'è, ma vediamo di capire cosa. La Fornero ha introdotto la pensione anticipata. nell'introdurre questa pensione anticipata, quindi io vado in pensione con... Anche se non ho raggiunto l'età anagrafica di legge, diciamo, l'età anagrafica è una... Ma ho raggiunto l'anzianità contributiva, esattamente. Quindi 41 anni e 5 mesi, ipotizziamo. Ora, c'è un regime transitorio in questa legge che dice che fino al 2017 si può andare in pensione con questo requisito senza ottenere nessuna penalizzazione. Quindi se ho diritto a 100, quel 100 mi verrà dato. Sì. Questo a condizione che io i 41 anni e 5 mesi li raggiungo con lavoro effettivo e con alcune assenze. E queste sono assenze espressamente previste dalla legge, maternità, malattia, quelle classiche. Si sono dimenticati di inserire, oppure non hanno voluto inserire, due assenze che sono tipiche, quindi donazione sangue e legge 104. E legge 104. Quindi cosa vuol dire? Che se io vado in pensione con 41 anni e 5 mesi, queste assenze mi valgono per il raggiungimento dei requisiti, ma quando mi calcoleranno l'ammontare della pensione, se ho meno di 62 anni mi faranno delle trattenute, un 1%, un 2%, una quota mi verrà trattenuta. Quindi una penalizzazione di carattere economico. Economico, ma non in termini di anzianità, certo. Per il raggiungimento dei requisiti. Defusco, però ecco, voglio precisare anche un'altra cosa, il senatore Pizzetti all'inizio del programma ci ha raccontato che si sta tentando di correggere anche questa situazione, quindi adesso noi spieghiamo come funzionerebbe qualora questo emendamento non passasse. Allora, intanto io ho visto l'emendamento e l'emendamento si occupa solo dei donatori di sangue, quindi ecco, suggerisco alla parte politica. Hanno detto che lo faranno, ce l'ha spiegato il senatore Pizzetti all'inizio. Bene. Ottimo. Quindi intervenire su questo tempo, su questo tema è importante. L'elemento quindi di calcolo è che fino al 2017, se io raggiungo 41 anni e 5 mesi e ho anche solo un giorno di donazione sangue, attenzione, quindi anche solo una volta sono andato a donare il sangue, io devo vedere in quel momento quanti anni ho. Se ho meno di 62 anni avrò comunque una penalizzazione della pensione di 1% o 2%, quindi non avrò nel mio esempio di prima la pensione uguale a 100 l'anno, ma avrò una pensione pari a 99 o 98 a seconda di quanto sono giovane. Più sono giovane, più mi trattengo. Più viene penalizzato l'assegno. Nicoletta. C'è un messaggio che vorrei leggere su invito di Fabriano, che ce lo manda a proposito di furbetti che donano il venerdì. Chi dona sangue il venerdì non è un furbetto. A volte negli altri giorni c'è poco personale sanitario. Per favore leggete questo SMS, perché chi dona non è mai un furbetto. Ci tenevo a ricordarlo e a far sentire la voce anche del nostro ascoltatore. E volevo anche chiedere al dottor Defusco, lei dona e che gruppo sanguigno ha? Ah. Io sono un donatore. Adesso non mi chieda il gruppo sanguigno che mi mette in l'abbiamo perché? Beccato in castagna. No, perché abbiamo scoperto, guardi, ad esempio, Defusco, che non me lo ricordavo anch'io per preparare la trasmissione, appunto, sono andata a ripescarmelo, ecco. Secondo me a sentirla così sarà uno zero positivo, un come universalissimo me. Anche lui, io sono positivo per natura, quindi benissimo. Anche il sangue credo sia della stessa. Però volevo dire una cosa, certo. Ci sono molti, probabilmente in tutte le situazioni ci sono i furbetti o non furbetti, però io ho visto tanti lavoratori quando vado a donare che donano il sangue e poi vanno a lavorare, nonostante abbiano diritto ad un giorno di assenza. Tutti i lavoratori autonomi, a parentesi, che apriremo anche fra qualche istante, però vorrei andare alle caratteristiche principali, dottor Defusco, della legge 104. Come funziona, quando è stata introdotta e a beneficio di chi? Beh, insomma, la legge 104 è una famosissima legge che tutela le persone portatori di handicap, è stata introdotta oramai da circa 20 anni, nel 92, questa legge dà la possibilità ai dipendenti di assentarsi per assistere una persona portatrice di handicap. Nel 2010, con la riforma Brunetta, questi permessi sono stati molto ristretti in termini di controllo, di effettivo beneficio, perché purtroppo negli anni si è un po' abusato. Ora il dipendente ha diritto ad assistere solo una persona, cioè o meglio il portatore di handicap ha diritto ad avere una sola assistenza, ogni dipendente può assistere anche più malati, più portatori di handicap. Lo può fare comunque nei limiti di un grado di parentela, se si tratta di un coniuge, di un parente o affine, entro il primo grado, o si può andare oltre a condizione che però il coniuge della persona portatrice di handicap non sia in situazioni di gravità o abbiano compiuto 65 anni, quindi sostanzialmente non siano in grado di assistere. Certo, adesso andremo anche a spiegare i requisiti per ottenere praticamente questo, chiamiamolo così, beneficio anche all'interno del mondo del lavoro, se sono anche molto stringenti, come dire, i controlli che vengono fatti, perché magari, ecco, quindi capire anche, perché poi qualcuno si sente anche vessato, come nel caso dell'ascoltatrice che abbiamo sentito prima, perché quella che ha partecipato appunto alla gabbia, che non solo ha raccontato del fatto della 104 e la questione appunto del trattamento pensionistico, ma questa sorella che è evidentemente una persona malata e che sta in sedia a rotelle, per la verità viene un po' anche troppo ricercata dall'INPS con controlli eccetera. Sentiamo gli ascoltatori, un giro di telefonate, prendiamone un po' tutte insieme, così facciamo una bella batteria di ascoltatori. Vai. Allora iniziamo da Patrizia da Cecina. Patrizia, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Poi abbiamo, lo diciamo già, Antonio da Caserta e Michele dalla provincia di Chieti. Grazie. Ma 800240024 continuate a superare la barriera rosa. Patrizia. Buongiorno, io sono un'artigiana e confeziono tendaggi per interni. È venuta una signora che mi ha chiesto appunto di fornire questo tendaggio. Beneficiando dello sgravio dell'IVA al 4% in quanto ha il marito che è appunto invalido. La mia commercialista sostiene che il mio lavoro non rientri non è che sta fornendo dei medicinali che beneficiano di questa tassazione. Cioè, poi dopo vedi, no, gli abusi, dottor De Fusco, le esagerazioni. Prenda nota, Enzo De Fusco. Prenda nota. Poi andiamo. È un tantino forzata questa richiesta? Un tantino, sì, direi di sì. L'utilizzo dell'aliquota agevolata è circoscritta comunque agli acquisti di medicinali o comunque prodotti per il diretto sostentamento della persona sostanzialmente portatrice di handicap. No, ma poi voglio, adesso ci mancherebbe altro che Patrizia, rifiutandosi di concederle questa cosa che ha richiesto, perdesse il cliente e questa signora vada da un'altra parte e trovi appunto un fornitore che gli fa questo favore. Però Patrizia dovremmo andare, perché le tende di casa mia e di casa tua fanno pietà. No, allora le mie no, perché ho appena ristrutturato casa, quindi non l'hai vista. Non cominciamo a dare dei giudizi inappropriati. Antonio, Patrizia, così, un salutone. Le tende di Deborah, non è vero. Antonio, buongiorno. Sì, buongiorno. Io rifarò le tende di Deborah. Ci dica, vada. La mia situazione è questa. Buongiorno. Sì. Io sono un lavoratore dal 99 e donno dal 99. Ho 33 anni e diciamo quando andrò in pensione dopo il 31 dicembre del... Antonio, lei ha 33 anni, ma lo sa quando andrà in pensione? Fra 200 anni. De Fusco. Allora, si può parlare di pensione a 33 anni? Allora, a me piace che a 33 anni si abbia una cultura previdenziale. E su questa bacchettata io la condivido e me la prendo anche sulle mani. Perché ha ragione. Perché noi dobbiamo ragionare alla nostra pensione sin dal primo giorno di lavoro. Però il problema è che Antonio lo faceva questo ragionamento in virtù del fatto che fa le donazioni e teme che questi giorni gli saranno trattenuti dal computo pensionistico nel 2040. Però, certo, e qui è un po' anticipato, però... Devo dire che a lui abbiamo già spiegato sostanzialmente che può continuare a donare il sangue perché nessuna trattenuta in termini di anzianità le verrà fatta anche fra 40 anni. Benissimo. Quindi, siamo positivi, esatto, De Fusco. Sì. Molto bene. Michele, dalla provincia di Chieti. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Salve, saluto tutti. È il nostro ascoltatore, Michele, la interrompo. È il nostro ascoltatore barriera. Non si sa. Michele, lui si chiama come mio nipote, quindi dovrebbe essere premiato solo per questo, Michele. Poi, prima cosa. Seconda cosa, adesso vediamo. Sì, probabilmente l'ultimo ascoltatore. Le interessa ricevere a casa una guida su eredità e successioni del Sole 24 Ore? Assolutamente sì. E allora gliela mandiamo volentieri. Anche perché penso che me lo merito, perché sono un vostro ascoltatore dalle 6 di mattina fino alla sera inoltrata. Ottimo, Michele, continua allora ad essere con noi e allora si merita anche tutto l'approfondimento per la sua domanda. Ci dica. Va bene. Niente, io volevo chiedere al vostro esperto, io sono un donatore e lavoro in un'azienda della zona media, circa 2.000 dipendenti, che da quest'anno hanno fatto un accordo sindacale per un premio di produzione che ci danno, dove c'è una parte economica legata alla presenza lavorativa, cioè se non facciamo malattie ci spetta, e poi un'altra parte aggiuntiva che è legata all'utilizzo di queste, per esempio chi va a donare sangue viene escluso, chi prende la legge. No, ma questo mi sembra un abuso, Michele, mi scusi, ma veramente inaccettabile. Michele, siccome abbiamo veramente un minuto di tempo, il suo caso richiederebbe tutta una puntata. Enzo De Fusco, questo signore dice c'è un premio di produzione garantito a tutti i lavoratori in questa azienda, chi però fruisce o della 104, chi va a fare la donazione di sangue viene escluso. Ma di che stiamo parlando? Lo so, è una regolamentazione assurda. Però purtroppo, essendo un premio aggiuntivo alla normale retribuzione, le regole che si applicano sono quelle contenute nell'accordo, e quindi se il sindacato ha firmato un'intesa di questo tipo, evidentemente non potrà che essere così. Non c'è la legge tutela la retribuzione solo quella ordinaria, quella tabellare, non anche le forme premiali. Però, vabbè. Però è veramente dovremmo assurdo. Aprire un dibattito evidentemente sul ruolo del sindacato oggi all'interno dell'azienda, che non ne abbia Susanna Camusso, che stamattina è stata ospite di Giovanni Minoli, però insomma adesso una persona ha un malato a casa, ha bisogno di 2 o 3 giorni per assisterlo, portarlo a fare i controlli eccetera, non ha un premio di produzione, chissà quanto ne ha bisogno anche per poter continuare a garantire. Va bene, sulla 104 non abbiamo raccontato i requisiti, De Fusco, ma la riacciufferemo presto per questo tema così importante e delicato. Nicoletta, grazie. La seconda settimana insieme. Dai, è andato tutto bene, tutto direi lì. Al dottor De Fusco però di scoprire il suo gruppo sanguigno. Esatto, e poi ce lo racconta Enzo. Prossima volta. Allora. Grazie molte. Noi ringraziamo tutto lo staff che ci aiuta, che ha tutta la pazienza del mondo per sostenerci e sopportarci, soprattutto nelle nostre crisi isteriche del pomeriggio. Grazie a Nicoletta Carbone, a mia Deborah, compagna di viaggio. Ci risentiamo lunedì. Buon weekend a tutti. Ho sbagliato anche stavolta. Buon weekend. Cuore e denari.